Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, da stamane di buon'ora l'Italia è in Sudafrica, tutto sta a vedere quando ne tornerà. Certo, l'ideale sarebbe il 12 luglio all'indomani della finale, ma l'importante io credo è che ci stia almeno fino al mese prossimo, perché tornare in giugno significherebbe o essere eliminata abbastanza incredibilmente addirittura nel girone di qualificazione, oppure al massimo superare l'ottavo di finale. I quarti per l'appunto iniziano da luglio. Ad accogliere l'Italia a Johannesburg c'era anche l'inviato di Radio 24 in Sudafrica, Dario Ricci. Buongiorno Dario. Buongiorno Gigi. Accoglienza sudafricana all'Italia, com'è stata? Beh, è stata l'insegna di importanti misure, significative misure di sicurezza, come anche del resto qui nel ritiro di Centurion, dove sto parlando. C'erano anche delle autorità locali della comunità italiana, la nazionale attesissima, c'è un forte legame tra Sudafrica e Italia per motivi storici, culturali, anche per motivi di business, e quindi gli azzurri, diciamo, erano attesissimi anche chiaramente in virtù del loro ruolo di campioni del mondo. Beh, questo insomma in un certo senso era un atto dovuto e siamo d'accordo. Senti, c'è un'espressione meravigliosa che usava il grande Beppe Viola, e che era, lui diceva, l'ufficio facce, e cioè provare a guardare un pochino, no? le persone in generale, in questo caso i giocatori, la delegazione, l'IPI e finché ce n'è, e cercare di capire, al di là del fatto che aveva viaggiato per una notte intera in aereo, cercare di capire appunto dall'ufficio facce che cosa può maturare. Ma guarda, direi che l'ufficio facce ha trasmesso l'idea di una bella determinazione. Anche alcune decisioni di Lippi nella gestione di questo ritiro fanno pensare a questo. La squadra alloggerà da sola nel suo hotel, e anche tutto il personale della Federcalcio, compreso l'ufficio stampa, le strutture più direttamente collegate al gruppo, alloggeranno in un altro hotel, proprio perché Lippi vuole che la squadra resti da sola, tranquilla, tra l'altro seguendo un filone che è proprio di questo mondiale. Diciamo che le big hanno in qualche modo blindato e limitato al massimo i loro ritiri anche nel loro rapporto con la stampa. Gigi, pensa che sì, a tutt'oggi Brasile e Argentina non hanno mai concesso ai giocatori l'incontro con i giornalisti nella zona mista, sicuramente una particolarità. Sì, beh, certo, in questo il calcio è davvero molto cambiato, e quella che una volta era una festa adesso è diventata una cosa molto più professionale, molto più distaccata, che in buonissima parte nasce purtroppo da esigenze di sicurezza, ma insomma io credo che poi ci sia qualcuno che su questa sicurezza ci marcia, no? per evitare contatti, per privilegiare l'isolamento, il soli contro tutti, insomma queste atmosfere che ormai abbiamo imparato a conoscere già nelle scorse edizioni. Dunque l'Italia debutta lunedì con il Paraguay lunedì sera. Qual è la marcia di avvicinamento prevista da Lippi da qui a lunedì? Ecco, c'è una serie di, chiaramente si comincia già fra poco alle 15:30 con la prima sgambata qui sul campo di Centurion, da cui praticamente vi sto parlando, sono all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, Gigi. Sì. E poi l'allenamento aperto alla stampa, prima conferenza stampa di Lippi, si ripete poi di fatto questo programma anche domattina con allenamento e poi incontro con i giocatori, quindi ecco, questo è un po' la marcia d'avvicinamento. Venerdì 11, in occasione dell'inizio del mondiale, ci sarà anche una partitella amichevole con una squadra locale di Pretoria per fare una sgambata un po' più significativa. Lo so che è presto per parlarne, o è tardi da un certo punto di vista, ma è troppo presto per un altro, però, e non è certamente stamattina che all'arrivo si sono potuti sciogliere i dubbi, ma vista da lì, tutti questi dubbi che Lippi si porta dietro addirittura sul modulo, e cioè il 442 d'ordinanza, che però non gli è mai particolarmente piaciuto e non gli è poi nemmeno così congeniale. Un attaccante con due o tre fantasisti a inserirsi, il centrocampo disegnato in un modo anziché in un altro, sempre aspettando i recuperi di Camoranesi prima e di Pirlo poi, sperando che davvero si realizzino, anche la difesa, cioè giocata su uno schieramento anziché in un altro, addirittura a tre secondo una possibilità. Cioè è un'Italia che sembra avere perso alcune certezze sue e sembra cercare soluzioni nuove e più affidabili proprio in extremis. Anche da lì si ricava sta sensazione? Ma sì, direi che queste incertezze sono un po' troppe, no? Visti anche i pochissimi giorni che ormai mancano al debutto. Viste da qui, in realtà, forse quelle abituali polemiche che ci sono state dal punto di vista politico, dal punto di vista anche tecnico, e anche questi infortuni possono in qualche modo, se si può dire così, essere utili quantomeno per cementare il gruppo, per cementarne le motivazioni, per individuare quel nemico esterno che è spesso stato un elemento di forza per i gruppi azzurri tradizionalmente. Certo, gli interrogativi dal punto di vista tattico e anche dal punto di vista della rosa a disposizione, perché Pirlo a questo punto sembra recuperabile sì, ma solo per la Slovacchia, la terza partita del girone, sembrano tanti da qua, Gigi. Molto bene, allora chiudiamo questo primo collegamento africano con Dario Ricci, grazie. Grazie a voi. E dunque, sì, siamo vicini al primo intervallo di giornata. Vi ricordo che potete intervenire, cioè siamo partiti all'Italia più tardi, dopo l'intervallo della mezz'ora, cioè dopo i mercati. Amplieremo il panorama con l'intervento dallo studio centrale Sky Sport 24 con Fabio Tavelli, per esempio. Questo 6-0 con cui la Spagna ieri sera ha liquidato la sua ultima amichevole in patria contro la Polonia prima di partire stamane, e altri argomenti ancora. Una parentesi sul calcio di casa nostra, sul calcio, beh, non dico giudiziario, ma insomma di quel genere di casa nostra. Il procuratore federale Palazzi ha rinviato a giudizio Moratti, l'Inter e il Genoa per responsabilità oggettiva per le operazioni di mercato 2009. Preziosi, che era inibito per 5 anni dal 2005 e quindi era ancora sotto inibizione nel 2009, lo scorso anno, raccontò di aver chiuso personalmente con Moratti il passaggio di Motta e di Milito all'Inter. Sono, leggo sul sito della Gazzetta dello Sport, sono le decisioni del procuratore Stefano Palazzi in merito all'acquisto di Motta e Milito. La decisione arriva con un anno di ritardo dai fatti, il dossier era alla Procura federale da qualche mese. Sì, Prezioso era inibito per 5 anni dal 27 maggio 2005 con proposta di radiazione ancora pendente, e quindi a fine maggio 2009, quando la squalifica era ancora attiva, non era abilitato a trattare alcun tipo di trasferimento. Ovviamente sarebbe stata indimostrabile la cosa se non fosse stato lo stesso Preziosi a dichiarare: ho visto Moratti a colazione, abbiamo raggiunto un accordo sulla valutazione dei due giocatori e ci siamo stretti la mano, tra noi c'è molta simpatia e nel futuro potrebbero esserci altre collaborazioni. Da qui la decisione di Palazzi di deferire l'Inter, il Genoa, Moratti e Preziosi. C'è in linea Lorenzo da Belluno, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Volevo chiederle, secondo lei, se questo palese ritardo di preparazione può influire sul passaggio del turno, visto che la prima partita ce l'abbiamo con la squadra più forte, che è del girone, oltre all'Italia chiaramente, che è il Paraguay. Non crede che arriviamo un po' in ritardo verso la prima partita e quindi ci sarà già uno spareggio con la Slovacchia per passare il turno? Questa è la mia domanda, grazie. Lorenzo, io non lo voglio credere, nel senso che se siamo ridotti a pensare che la Slovacchia sarà uno spareggio e che la prima partita è una partita che deciderà la qualificazione, orienterà seriamente la qualificazione, e stiamo parlando di Paraguay, Nuova Zelanda e Slovacchia, insomma tanto valeva non partire. Questo non vuol dire sottovalutare gli avversari, non vuol dire prenderli sotto gamba, non vuol dire niente di tutto questo, però vuol anche dire che un minimo di senso pratico, no? Ci vuole. Io ricordo che all'epoca del sorteggio, quello dell'Italia e di due o tre altre nazionali grosse, come l'Inghilterra per esempio, fu definito un sorteggio fatto davvero con le mani. Poi è ovvio che quando si arriva vicino all'appuntamento le prospettive un pochino cambiano, insomma, ma non possono cambiare fino a questo punto. Che delle tre squadre il Paraguay sia quella più impegnativa non c'è dubbio. Il fatto di dover incontrare all'inizio, insomma, i debutti non sono mai facili, può essere una piccola complicazione, ma stiamo parlando per l'appunto di piccole complicazioni che non possono mettere in discussione la qualificazione in questo girone, direi obbligatoriamente al primo posto. Beh, se no sarebbe grave. Io, è vero che l'Italia in questi quattro anni di colpi ne ha persi, è altrettanto vero che con il girone di quattro anni fa, cioè Ghana, se lo ricordo male, nell'ordine Ghana, Stati Uniti e Repubblica Ceca, io credo che oggi qualche problemino serio lo avremmo. Con questo sinceramente mi sentirei di dire di no. Un altro ascoltatore, Augusto da Forlì, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Due domande. Secondo lei, con l'arrivo di Benitez, dovrà avere ancora un anno di purgatorio Balotelli, oppure potrebbe essere l'occasione che lo fa, diciamo, esplodere tra virgolette? E seconda cosa, il riferimento che hanno avuto Genova Inter, ma non deve essere responsabile chi mette le firme? Chiedo, non lo so. Aspetto la sua risposta, grazie. Ma chi mette le firme, sì, però qua insomma il procuratore federale la pensa in una maniera diversa, cioè lui pensa che questa dichiarazione di Preziosi sia, che poi per la verità fu smentita dallo stesso Preziosi, però questa smentita non lo ha convinto e quindi ha rinviato a giudizio l'Inter per responsabilità diretta e il Genoa per responsabilità oggettiva. Ora, io non voglio lanciare allarmi o segnali di fumo che peraltro sono già stati lanciati dai siti, perché basta leggere la norma federale e interpretarla letteralmente e i contratti di Diego Milita e Thiago Motta non sarebbero validi, perché se l'accordo è stato raggiunto con una delle due parti inibito a trattare, cioè nel caso Preziosi, il contratto non è valido. Se non è valido il contratto, è difficile ipotizzare quali potrebbero essere le conseguenze di un processo sportivo, ma certamente ci starebbero ampiamente penalizzazioni di vario genere, su questo non c'è dubbio. Ripeto, con una interpretazione letterale della norma. Adesso si tratta di vedere fino a che punto la Procura federale vorrà proseguire su questa strada e quali elementi ulteriori, di cui noi non siamo a conoscenza, ha acquisito nel frattempo. Su Balotelli non capisco perché Benitez dovrebbe come dire, ostacolarne la crescita e lo sviluppo. Non mi sembra il suo genere, ma inizialmente non mi sembrava neanche il genere di Mourinho. Poi mi pare che Balotelli la vita se la sia complicata da solo inizialmente, prima poi di essere indubbiamente finito nel mirino e prima ancora poi, come dire, di questa rappacificazione finale. Torniamo al mondiale, perché mi pare che sia l'argomento principale di questi giorni, anche se questo deferimento di Inter e Genova rischia per qualche tempo almeno di rubare la scena, soprattutto se le conseguenze dovessero essere quelle che, ripeto, un'interpretazione letterale della norma federale potrebbe lasciar presagire. Dicevo, torniamo al mondiale e torniamo a sembra ieri, cioè alla, come dire, alla ricerca che Nicola Filippone sta facendo in questi giorni sulle date che si susseguono agganciate a precedenti edizioni dei mondiali. Sentiamo che cosa ha scovato sul 9 di giugno. Sembra ieri. 9 giugno 1990. La nazionale di Vicini debutta a Italia 90 a Roma contro l'Austria. Gli azzurri partono all'arrembaggio, schiacciando gli avversari nella loro metà campo, ma senza trovare il gol. A un quarto d'ora dalla fine, il CT azzarda la carta Schillaci, che rileva Carnevale. All'attaccante della Juventus bastano 8 minuti per trasformarsi da outsider in protagonista assoluto dell'avventura azzurra. Donadoni apre sulla destra per Vialli, che riesce a liberarsi per il cross. Schillaci, in mezzo ai due giganti centrali austriaci, trova il colpo di testa che risolve la gara. Iniziano così le notti magiche. Notti magiche, quelle di 20 anni fa, che si sarebbero poi concluse in una notte napoletana, quando sbagliamo due rigori e passò l'Argentina, e l'Argentina si qualificò per la finale contro la Germania. Di quella prima notte magica dell'Olimpico, ricordata per l'appunto, segnalata oggi da Nicola Filippone, Flavio Suardi ha ricostruito alcuni momenti che vale la pena di ripassare. Sentiamo. Siete collegati in diretta con lo Stadio Olimpico di Roma, dove sta per avere inizio l'incontro valido per il campionato del mondo tra le nazionali d'Italia e Austria. Esce Carnevale, entra Totò Schillaci. Pensai di tutto, addirittura di fare brutta figura, perché era un momento così brutto, l'Italia non segnava. In quel momento poteva succedere di tutto. Donadoni. Vialli. Parte il suo cross. E c'è il gol proprio di Schillaci. Entrò e fece un gol di testa in mezzo a due difensori austriaci che erano alti 2 metri. Per il calcio anche queste sorprese. Le voci di Bruno Pizzul, la voce di Azeglio Vicini, la voce di Totò Schillaci. Siamo tornati indietro di una ventina d'anni. Ripeto, in questo viaggio, questo brevissimo viaggio che è all'interno del Tempo di Sport, continueremo a fare da qui all'11 luglio. C'è un altro viaggio che il Sole 24 Ore sta facendo con le sue pagine dedicate ai mondiali. Oggi in particolare ce n'è una molto interessante, perché Ugo Tramballi ha ricostruito la storia degli italiani che fecero impresa in Sudafrica, e sono 80.000, 3.000 aziende e un gran numero di professionisti discendenti dei prigionieri di guerra che laggiù si fermarono e laggiù costruirono qualcosa di molto concreto, di molto sostanzioso e di molto significativo per l'immagine dell'Italia. Un'altra pagina dedicata oggi dal Sole al Mondiale è, diciamo, un pochino più di evasione, perché è un'indagine su come la moda sta indossando il tricolore, cioè stilisti e marchi specializzati in genere. Quali novità hanno ricavato ispirandosi all'evento, dedicandole alla nazionale calcistica. Anche qui ci sono due ricchi servizi, modaioli, diciamo pure, no? Ma comunque strettamente collegati a questa avventura sudafricana al cui inizio mancano ormai poco più di 48 ore. Con il Genoa è nato il calcio in Italia, scrive Mario. Non dobbiamo dimenticarlo mai, basta attaccare il Genoa, abbiamo già dato. Il Genoa lo sta attaccando il procuratore federale Palazzi, non certamente da questa sede. Anzi, io segnalo con estremo piacere che il Genoa ieri sera è diventato campione d'Italia primavera, perché uno scudetto primavera è un titolo non solo importante, ma molto significativo nel calcio di oggi. Significa dare spazio ai giovani, ed evidentemente se vince uno scudetto dare spazio ai giocatori di qualità. Nella finale di Macerata il Genoa ha battuto l'Inter, ha battuto l'Empoli 2-1, ma se Preziosi, inibito per 5 anni dal 27 maggio 2005, dichiara pubblicamente di aver concluso lui l'accordo con Moratti per la cessione di Motta e Milito, e la sua smentita poi non convince la Procura federale, direi che nei guai ci si caccia da solo il signor Preziosi, e non sarebbe proprio la primissima volta, no? Non sarebbe inedita come cosa, e credo che da lì sia lui che debba uscire. In questo caso è un autoattacco, io credo, non è certamente un eccesso di zelo da parte della Procura federale. Torniamo al Mondiale, dicevo, e torniamo allo studio centrale di Sky Sport 24 con Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Buongiorno, buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Dunque, abbiamo esaurito prima il capitolo Italia, anche perché tutto si limitava poi all'accoglienza, insomma, un arrivo, o c'è qualche novità dai tuoi punti di osservazione strategici? No, No, c'è l'attesa per l'allenamento di oggi. Il viaggio è andato bene, ovviamente tutti marcati dall'inizio alla fine, immagini, riprese, stamattina l'intervista ad Abete, la classica intervista al presidente della federazione, poi direi riposino e oggi pomeriggio la prima sessione di allenamento, una sessione di allenamento che sarà semplicemente per mettersi i pantaloncini, le scarpette e quant'altro per smaltire il viaggio. La verità è che è un viaggio abbastanza comodo, nel senso che partendo la sera si arriva qui in mattinata, gli azzurri sono arrivati alle 9, noi siamo arrivati alle 9:30, ma cambia poco, di fatto non avendo alcuna ora di fuso, questo lo ripeto perché in molti ancora lo chiedono, ma qui abbiamo la stessa ora che c'è in Italia, questo è un grande vantaggio. Certo, molto vicino a Johannesburg, quindi la temperatura e il clima è uguale ed è veramente ideale per non essere troppo affaticati. Faceva un po' più caldo ieri sera a Murcia, invece, dove Murcia siamo nel sud della Spagna, dove gli spagnoli hanno concluso la preparazione con una amichevole, hanno segnato 6 gol alla Polonia tra Villa, Silva, Xabi Alonso, Fabregas, Torres, Pedro, insomma si sono andati i turni un po' tutti. È uscito verso fine primo tempo Iniesta toccandosi di nuovo la coscia, questo credo che sia la notizia negativa, no? Sì, sì, è la notizia negativa del giorno, anche se ha una notevole distanza, nel senso che tutti noi siamo qua e quindi a vedere la Spagna non c'era nessuno, però la Spagna tra l'altro sarà l'ultima squadra ad arrivare qui in Sudafrica, e la notizia di Iniesta, che ovviamente le cui condizioni sono ancora da valutare, è certamente l'altra notizia negativa del giorno. Ora, è presto per dire qualsiasi cosa sensata, quindi fermiamoci al fatto che ha avuto questo problema. Però insomma la Spagna è stata bersagliata in maniera molto pesante nelle ultime settimane, diciamo negli ultimi mesi, perché insomma Fabregas e Torres hanno perso gran parte delle partite finali della loro stagione, quindi insomma diciamo che se forse la Spagna ha già dato, insomma auguriamoci per lo spettacolo complessivo che Iniesta, che peraltro lui stesso ha avuto una stagione non particolarmente brillante a causa degli infortuni, possa esserci. Stavo intanto scorrendo l'extranet della FIFA per dirti che la Spagna arriverà venerdì 11 al Tambo International Airport qui a Johannesburg alle 9:30, quindi fa praticamente lo stesso volo che hanno fatto gli azzurri, arrivano più o meno allo stesso orario, però loro arriveranno venerdì mattina, quindi saranno credo anche gli ultimi ad arrivare. Senti, leggo da agenzie un paio di notizie ambientali, una è una sfuriata di Cappello che ha cacciato i fotografi come se fossero un po' i mercanti del tempio. E questo direi che insomma fa parte di una certa routine, no? Lo sopporta e digerisce molto male questa intrusione costante e continua da parte dei media inglesi, poi si lamentano dei media italiani e se ne vanno dall'Italia, però io credo che veramente all'estero si possa stare anche peggio in certi casi. Naturalmente citazione e riferimento da prendere a uso e consumo di chi vuole, ma la seconda cosa è che onestamente il mestiere nostro può essere interpretato in molti modi e comunque i media si sono moltiplicati perché non ci sono più solo i giornali e le televisioni e le radio, ma ci sono anche i siti, i telefonini e mille altre cose. Naturalmente il mondiale è una torta importante per tutti e quindi c'è anche la caccia all'indiscrezione, la caccia all'immagine curiosa particolare, quindi capisco bene che Cappello dopo 2 giorni di mondiale sia già con le pile belle cariche. Sì, non c'è nessun dubbio, le pile non è male. E l'altra che leggo è, arriva da dove sei tu, da Johannesburg, e racconta di un corteo spontaneo per le strade di Johannesburg con gente che sventolava bandiere di tutte le nazionali, ma soprattutto le vuvuzelas suonate all'impazzata. Ecco, noi ci siamo un po' dimenticati che tra 48 ore cominciano a tritarci i timpani. A voi li tritano fra 48 ore, sì. Noi siamo già belli in temperatura. Tra l'altro ieri il proprietario di casa nostra, del residence dove stiamo, ce ne ha regalata una e ce l'ha lasciata in casa. È rossa, lunghissima. Quanto è lunga sta tromba? La fine che merita. Sì. E, purtroppo questo è un flagello del quale credo non usciremo vivi. Trombe lunghe quanto? Scusami per curiosità, perché poi sei... Ma guarda, quella che ci ha lasciato adesso ti faccio... Noi abbiamo un plasma abbastanza grande in salotto e la tromba lo sovrasta, quindi insomma sarà un 70-80 centimetri tutti. Di tromba. Di tromba. Di tromba. Pensa a te. Si divertono così, insomma, hanno questo trip. Senti, c'è un vantaggio però, perché in questo caso può diventare un'arma contundente, cioè tu gliela strappi, sì, e cerchi di spaccargliela in testa, solo, sì, che sono talmente tanti loro che non ce la puoi fare. Sì, no, e poi non so se converrebbe in ogni caso. No. Due o tre cose che arrivano dal mondo dei bookmaker, che in questi giorni ovviamente stanno impazzando. Allora, una serie, Messi favorito come capocannoniere a 2,25, seguito a Ronaldo a 2,50 e Rooney a 2,75. Io non sono assolutamente d'accordo, perché non credo proprio che Messi segnerà tanti gol in questo mondiale, me li augurerei, però non sono convintissimo, ed è una, vabbè. L'altra mi sembra più divertente, ed è che si scommette sul primo, come dire, obiettivo dell'ira di Maradona, cioè dicono: quando Maradona perderà il controllo dei nervi, e succederà presto, secondo, sì, i quotisti inglesi. Ecco, sì. Secondo i quotisti inglesi, allora loro dicono che se la prenderà con l'arbitro a 2,38. Io non ci credo tanto. In mass media a 4, e ci credo molto molto di più. Poi dice Blatter a 9 o la Federazione di Calcio Argentina a 10. Io non posso non dimenticare quella... con perdon della dama, Gigi, quella rimane insuperabile. Devo anche dirti che mentre la prima che tu hai detto è verificabile, perché basta vedere la classifica canonieri, questa seconda secondo me è un po' più soggettiva, cioè chi stabilisce il tipo di invettiva, se è un'invettiva contro un arbitro, mi sembra abbastanza complicato poi riuscire a decodificarla bene. Io te ne giro altre due, sì, perché si può scommettere intanto sulla nazionalità del primo tifoso arrestato per incidenti, però a mondiale iniziato, perché ne sono stati rimpatriati una decina di argentini due giorni fa. Pericolosi. E quindi si può anche scommettere sulla nazionalità del primo arrestato. Sì. E poi si può anche scommettere sulla nazionalità del primo giocatore pescato positivo al doping. E in questo caso Cile. I giocatori del Cile sono quelli che hanno una quotazione più bassa. Sono reputati. No, non una bella cartolina di presentazione. No, senti. Però sta a loro smentirli. Senti, Omar scrive l'ultimo SMS arrivato, dice: propone domani in anteprima Fabio Tavelli che ci suona la vuvuzela di casa. Potrebbe essere questo è un'anteprima che il nostro amico Omar credo non avrà. Però se vuoi, Gigi, te la porto, perché cioè, in realtà, di ritorno a Sudafrica, dici? Un'altra la trovo, cioè quella ha fatto una brutta fine, sì, però si può sempre. Vabbè, Fabio, io credo che dai un'ultima perlustrata ai tuoi video della tua postazione, se non c'è altro. No, direi che non... fammi dare un'occhiata qui sul canale della FIFA. Compagnoni ci diceva prima di un po' di nervosismo nel ritiro della Francia, ancora per questa cosa di Gallas che è dato per certo al Panathinaikos, mentre invece qualcuno aveva scritto che l'aveva, non dico preso, ma contattato la Juventus. No, sì. In questo momento non ci sono ultimi. Senti, facciamo ancora, leggiamo ancora questa mail di Federico D'Alessandria che scrive: io non ci capisco più niente. Il rumore assordante di uno stadio nostrano, per esempio di Napoli, è colore, quello delle vuvuzela se fastidio. Ma, dice Fede, lo portiamo in Sudafrica un attimo. No. Se Fede vuole venire, volentieri lo ospitiamo, però. Provate a immaginare se il colorito e fantastico pubblico di Napoli per 90 minuti dicesse la lettera A. Cioè, se tutti urlassero A, così, cioè, sarebbe colorito o sarebbe una solenne rottura di scatole? Io voto per la seconda. Sì. Quindi, certo, con un livello di decibel nettamente superiore, perché la tromba lo dice la parola stessa. Molto lo bene. Dice la parola stessa. A domani, Fabio. Vabbè. A domani, ciao a tutti. Chiudiamo questo collegamento con, ripeto, lo studio centrale di Sky Sport 24 a Johannesburg. Sì, ci sono un paio di ascoltatori già collegati. Uno prima dell'intervallo. Beppe, Modena, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io ho avuto la possibilità di ascoltare prima sulla tematica su Preziosi e Moratti. Sì. Io volevo dire questo. Io credo che si stia arrivando anche un pochino ad esasperare i toni su tutte le cose anche da parte della Procura Federale, perché io credo in buona sostanza che un presidente di una squadra di calcio che mette dei soldi, che investe e non ha la possibilità comunque in modo privato di poter parlare con un altro presidente dove poi ci sarà, ci saranno i tecnici che decideranno alla fine e saranno coloro che concluderanno l'operazione, che vada alla fine a creare il problema della sua società, mi sembra che sia diventato un po' una roba esagerata. Io credo che Preziosi ha dimostrato fino ad oggi, è vero che ha fatto delle dichiarazioni sui giornali dove ha detto che ha chiuso l'operazione, ma le voglio fare una domanda con estrema serenità e sincerità. Se Preziosi non avesse detto ciò, ma comunque l'avesse fatto, nella sostanza, cosa cambia? Però cioè, i regolamenti prevedono sostanza e prevedono forme anche, i regolamenti non li ha scritti Palazzi, non li ha scritti Preziosi, per fortuna non li ha scritti. I regolamenti stanno lì da un po' di tempo, è vero che non vengono praticamente mai rispettati, è vero che oggi parlare di regolamenti in questo povero paese e di rispetto, no? Anche soltanto della buona educazione, è fare discorsi anacronistici, però quel però ci sta, che poi da qui ad arrivare a sanzioni vere il percorso sia lunghissimo e secondo me sinceramente abbastanza impercorribile, questo è un altro discorso. Ma che formalmente l'apertura di un'inchiesta ci stia, io penso proprio di sì, un'inchiesta autogol, un autogol del presidente Preziosi, ripeto, non certamente il primo di una luminosa carriera. Consigli per l'alimentazione durante il mondiale arrivano dal professor Giorgio Calabrese, celebre nutrizionista e docente all'università di Piacenza. Va diversificata l'alimentazione, a quanto leggo da questa agenzia, appunto con i consigli e i suggerimenti di Calabrese. Tra le 16 e le 18, per esempio, quindi la partita di mezzo, diciamo, perché ricordo che per le prime due settimane ci saranno tre partite al giorno, 13:30, 16:20 e 20:30. Tra le 16 e le 18, fortemente consigliabile evitare l'alcol, anche le bevande molto zuccherate, quindi semmai granite, possibilmente alla menta, eccetera. Macedonia, gelato, frutta di stagione, evitando ovviamente la panna. Poi ci sono le altre fasce orarie. Per le partite delle 13:30 o delle 20:30, Calabrese suggerisce la classica spaghettata, il risotto, magari verdure alla griglia, sempre concludendo il pasto con la macedonia o il gelato alla frutta. Tuttavia, e questa poi è la parte più significativa, io credo, di questo intervento, perché è la più realistica, una buona fetta di italiani mangerà decisamente male durante il mondiale, come è sempre accaduto, lasciandosi trascinare dall'atmosfera. E tutto questo, ricorda il professore, potrebbe tradursi negativamente sulla salute di alcuni, segnatamente degli ipertesi, eccone qua uno, che spesso e volentieri non dicono no neanche all'alcol fuori pasto. Tra i tanti che inevitabilmente si alimenteranno in maniera disordinata ci saranno anche tanti giovani e purtroppo bambini. È un po' catastrofista, se vogliamo, messa così, questo avvertimento, questa radiografia delle abitudini popolari rispetto ad un mondiale da parte del professor Calabrese, però mi pare estremamente realistica. Fausto ha chiamato da Como, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Senta, no, io volevo semplicemente dire una cosa, che è bello essere tifosi ed è giusto esserlo, però io penso anche che uno come Preziosi dovrebbe essere fuori dal mondo del calcio da almeno 10-15 anni, perché disastri lui ne ha fatti tanti, no? Quindi non si può sempre dire è impossibile attaccarsi a queste piccole cose solo perché un presidente ha parlato. Tutto qui, solo questo. Lui di disastri ne ha fatti e penso che non dovrebbe essere più in quell'ambiente lì. La ringrazio. Sì, a Genova non saranno molto d'accordo con lei, Fausto, ma certamente lei ha chiamato da Como, nella zona, diciamo, di Saronno e Como, in quelle zone. Appunto l'opinione rispetto a quella dei genovani è diametralmente opposta. Giuseppe ha chiamato invece da Varese, buongiorno. Buongiorno Garanzini a tutti gli ascoltatori. Sì. Senta, non so se è stato già stato detto, mi sembra che se quest'anno l'Italia vincesse il mondiale porterebbe a casa la Coppa e come lei ci sarebbe anche il Brasile che ha la stessa possibilità e credo la Germania, non solo l'Argentina. E questo per me significa che il mondiale già dalla federazione è stato preparato malino dalla federazione già 4 anni fa, perché questa è un'occasione unica. Se una di queste 4 vince il mondiale si porta a casa la Coppa, così come ha fatto il Brasile con la Rimet, giusto? La Rimet, che era la Rimet, sì. Rimet, bravo. Si chiamava Jules Rimet, era un francese. Senta, ma mi spieghi, cosa poteva fare la federazione già quattro anni fa? Lippi, secondo me, è bravo e anche fortunato. Il fatto che si sia fatto male Pirlo lo aiuterà, secondo me. Però, ha detto questo, quattro anni fa dovevano subito pensare che dovevano affrontare un mondiale per vincerlo definitivamente, portando a casa la Coppa. Perché le risulta in genere, Giuseppe, che i mondiali si preparano per perderli? No, però, no. Insomma, il fatto che arriva Donadoni, sta lì due anni, già poi riprendi Lippi... Lei è così convinto che gli allenatori siano più importanti dei giocatori? Perché io provo a farle un'altra riflessione invece. Lei è così sicuro che non ci siano in Sudafrica i migliori? E io sono abbastanza convinto, ho detto tra noi, che qualcosina di diverso si poteva anche fare nelle convocazioni. Ma lei è convinto che ci sia calcio, che questo sia un momento florido per il calcio italiano? Sto parlando italiano di scuola italiana. Infatti sono d'accordo con lei che doveva portare uno come Balotelli. Sì, ma lui poteva portare Balotelli, poteva portare Perrotta, poteva portare Balzaretti, poteva portare pure Cassano, non dico mica di no. Ma lei crede che cambierebbe il film con questi qua? No, ma difatti è stato impostato male, perché io non avrei ripreso per esempio Lippi, non avrei tenuto due anni in ballo per l'Europeo Donadoni, avrei cercato subito una strada per questo mondiale. Non so se mi spiego, ha capito? Perché questo mondiale, secondo me, che lo vince l'Inghilterra, ma se quattro anni vince l'Italia, ma però... Quattro anni fa, quando Lippi se n'è andato, cioè la federazione ha provato a imboccare una strada che in quel momento sembrava una strada ragionevole o una strada favorevole addirittura. Poi invece, andando avanti, non si è rivelata così, nemmeno il ritorno di Lippi per ora si è rivelato così felice. Ma insomma, continuo a credere che il convento passi più o meno questo oggi per quanto riguarda il calcio italiano, e sto parlando di giocatori, non di tecnici. Di tecnici ce ne sono tanti bravi, che però sono più in giro per il mondo adesso che in Italia, no? quelli davvero bravi. Giuseppe, grazie. Facciamo in tempo a seguire? Probabilmente sì. A sentire un parere su Lippi proprio di Abete, del presidente federale. Sa dare il massimo anche laddove si sente libero in relazione al suo futuro, come è stato peraltro anche in occasione del Mondiale del 2006, e quindi da questo punto di vista rimane una sicurezza. È che comunque vada, si chiamerà Cesare Prandelli il futuro commissario tecnico, e quindi questa è una strada in evoluzione, e questo indubbiamente, questo sì è un fatto inedito nella storia del calcio italiano. Grazie a chi ha avuto la pazienza di seguirci anche oggi, grazie a Carmelo Lauricelli in regia, a Flavio Suardi in redazione. Appuntamento a domani. A tempo di sport.